tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, quindi proprio fino a pochi giorni fa, nella regione della Slovacchia orientale alcune centinaia di nomadi hanno preso assalto negozi e supermercati, infuriati, arrabbiati, esasperati dai tagli, fino al 50%, che il governo di centrodestra slovacco ha disposto sui fondi per il sostentamento delle fasce deboli, e molti di questi fondi erano proprio destinati ad aiutare i Rom. Naturalmente questa notizia, che è passata quasi inosservata sui media italiani e su molti media europei, ha creato però molta apprensione e molta preoccupazione in seno all'Unione. Pensate che solamente nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Polonia e Ungheria messe insieme, sono oltre 1,5 milioni i nomadi che sono in attesa di una definizione di un loro status in qualche modo, perché normalmente, come accade anche in Italia, vengono esclusivamente confinati nelle periferie della città, in favelas, in baraccopoli non degne veramente di paesi civili. Bene, i Rom ora si sono arrabbiati e in migliaia hanno deciso, se non cambia la situazione, di marciare su tutti i paesi dell'Unione. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.